24. La storia. 9 dicembre 1992. In seguito al conflitto tra i clan in Somalia, gli americani sbarcano a Mogadiscio. 15 gennaio 1993. I movimenti somali firmano la tregua, ma la conferenza di pace fallisce. 3 maggio 1993. Il comando delle operazioni passa alle Nazioni Unite. Ciò che importa veramente è aiutare i somali a ritrovare democrazia e sviluppo. I militari italiani hanno ricostruito Johar, la scuola e l'ospedale. Il 20 luglio 1993, per dei dissensi tra Roma e Washington, viene ritirato il contingente italiano di Mogadiscio. Il 28 settembre 1993, i somali alzano il tiro contro gli americani. Orrore e morte nelle immagini da Mogadiscio. È il 28 settembre 1993, una soluzione sembra possibile, e il 16 novembre 1993 l'ONU cancella la risoluzione anti-Aidid. Nella primavera del 94 l'Occidente lascia la Somalia. È il 12 marzo 1994, Ilaria e Miran arrivano a Mogadiscio per raccontare quello che resta. Il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio vengono uccisi la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il suo operatore Miran Hrovatin. La morte di Ilaria Alpi è avvenuta in una Somalia devastata dalla guerra civile, è un giallo internazionale di cui si fa fatica a venire a capo. Noi oggi su Mix24 vogliamo raccontarvi la storia di questo omicidio, la storia di un'inchiesta che per qualcuno ha portato a due verità parallele. Sentiamo il padre di Ilaria Alpi, Giorgio Alpi. Noi le dicevamo tante volte, fatti vedere così vediamo come stai. E lei ci diceva, la televisione non è fatta per me, per quelli che io intervisto, delle cose di cui io parlo. E poi questo, voglio ricordarlo perché era un suo problema fondamentale, questo suo grande rispetto per le culture diverse. Il suo sforzo era di capire. Avevamo saputo che Ilaria era a Mogadiscio e per noi voleva dire tranquillità, la sapevamo amata, conosciuta, perciò eravamo tranquilli, infatti non sentimmo i servizi alla televisione. Buonasera, edizione straordinaria per una notizia tragica che colpisce tutti noi della RAI, in particolar modo noi del TG3, una nostra collega, una nostra amica, Ilaria Alpi, è stata uccisa pochi minuti fa, non più di un'ora fa, a Mogadiscio. Insieme a lei è stato ucciso un altro collega, un altro nostro collega e un altro nostro caro amico, Miran Hrovatin. Avevo parlato con Ilaria un'ora e mezzo fa, non di più, al telefono satellitare. Ilaria era partita per Mogadiscio 5 giorni fa e poi era rimasta bloccata con il suo operatore in un paese a nord della Somalia e da lì aveva impiegato 2 giorni per arrivare nella capitale somala. A dare la notizia dell'agguato Giancarlo Marocchino, un autotrasportatore italiano che vive a Mogadiscio da 10 anni. Per il comandante del contingente italiano in Somalia all'epoca, nel 1993, Carmine Fiore, e l'allora ambasciatore italiano in Somalia, Mario Scaiola, non ci sono dubbi. Gli attentatori sparano per uccidere. Si sono avvicinati e li hanno freddati con la tecnica da mafiosi. Secondo me si tratta di movimenti fondamentalisti. Si trattava chiaramente di un attacco diretto ad uccidere, quindi un attacco che può essere ritenuto di matrice politica, anche se nulla porta a ritenere che sia stato un attacco diretto contro 2 cittadini italiani o ancora di più contro 2 giornalisti. Come sono stati uccisi Ilaria Alpi e Miran Hrovatin? Perché sono stati uccisi? Sono state vittime del caso o di un'esecuzione premeditata? E se si è trattato di un'esecuzione, chi l'ha voluta la loro morte? Con quali armi sono stati uccisi? A parlarcene Giancarlo Marocchino, imprenditore italiano in Somalia. Hanno sparato con un'arma, qui la chiamano domiciaro, un'arma russa, che quest'arma qua spara 3 chilometri. E loro ci hanno sparato da, non so, da 10, da 20 metri, da quando hanno sparato, per capire. Quell'arma lì spara 3 chilometri, poteva ammazzarne 30 persone, se c'erano 30 persone in fila li ammazzava tutti e 30. Secondo me, magari una parolaccia, ma io dico che quella testa di cazzo di quel ragazzo che sparava per primo, lei poteva essere ancora in vita, perché lei, secondo me, la rapivano, secondo la mia opinione. E poi magari se anche la rapivano, poi non era morto. Ilaria e Miran rientrano a Mogadiscio la mattina del 20 marzo con 2 giorni di ritardo rispetto al previsto. Quasi tutti i giornalisti italiani hanno lasciato la città. All'hotel Saafi, dove alloggia a Mogadiscio Sud, Ilaria chiama i genitori, come racconta la madre. Lei mi chiamò e mi disse che era da poco arrivata da Bosaso e io le ho chiesto quando sarebbe rientrata. Dico, so che il contingente rientra tra il 20 e il 21. E lei mi ha detto che se la RAI le avesse dato l'ok, sarebbe rimasta alcuni giorni dopo la partenza del contingente italiano. E io allora le dissi, Ilaria, ma non, io desidererei che tu tornassi prima, se no vorrei rimanere per vedere che cosa succede in questo paese dopo la partenza del nostro contingente. Quella che stiamo raccontando oggi su Mix 24 è la storia dell'omicidio dei giornalisti della RAI, Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Mix 24, la storia. La vidi al Saafi Hotel. Mi disse che era tornata da Bosaso e che sarebbe andata a Mogadiscio Nord per incontrare il capo dell'ANSA, Remigio Benni. Io le dissi che il signor Benny non era a Mogadiscio Nord, che era a Nairobi. Bentornati su Mix 24. Avete sentito il giornalista Ali Moussa? Oggi stiamo raccontando il giallo internazionale del duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. La giornalista del TG3, tornata in Somalia a marzo del 94, decide ugualmente di recarsi a Mogadiscio Nord, all'hotel Amana, dove alloggia il collega dell'ANSA, Remigio Benny. Prima di uscire chiama il TG3 e preannuncia per la sera l'invio di un ottimo servizio. Poi con Miran, il suo operatore e la scorta, si avvia sulla Greenland, la terra di nessuno, il confine che divide Mogadiscio Nord da Mogadiscio Sud. 2 chilometri di deserto per separare le due parti in conflitto. Arrivati davanti all'hotel Amana, Ilaria e Miran si avviano a piedi nel giardino dell'albergo. L'autista parcheggia dall'altra parte della strada proprio davanti ad una Land Rover blu con la targa di Dubai con 7 uomini a bordo. Uno ha la divisa da poliziotto. Alla mano confermano che Benny è partito. Ilaria e Miran attraversano la strada. Ilaria, per salire sulla propria auto, gira intorno alla Land Rover. Miran sale al fianco dell'autista. Sono quasi giunti ad un incrocio quando la Land Rover li sorpassa e sbarra loro la strada. L'autista fa retromarcia per circa 80 metri, ma poi si ferma contro un muro e partono i colpi. Da questo momento ogni testimonianza si fa confusa, come quella del portiere della Mana, Assad Hassan, che ha osservato tutto dalla terrazza. Sentiamolo. Hanno sparato dalla macchina. Hanno sparato alla macchina. Erano inseguiti da 2 macchine, una Land Rover e una berlina bianca. Nel corso dell'intervista della TV svizzera, poco dopo l'agguato, la guardia del corpo afferma di aver sparato non appena la macchina era stata bloccata. Poi ha cambiato versione raccontando di aver risposto ai colpi degli assalitori e di essere fuggito via quando il fucile, dopo una decina di colpi, si è inceppato. Anche l'autista è illeso. A Mogadiscio, davanti all'hotel Amana, è il caos. Ma Ilaria Alpi, sebbene gravemente ferita, è ancora viva. Un imprenditore italiano che vive in Somalia si attiva subito per tentare di soccorrerla. Il suo nome è Giancarlo Marocchino. Questo è il suo racconto. È stata una giornata atroce. Ho corso la radio, ho avvisato i militari, perché eravamo in contatto radio. Comunque ho avvisato i militari dicendo, guarda che è successo questo incidente, cosa devo fare? Loro mi hanno detto, carica sulla tua macchina e portala all'aeroporto. Io ho rifiutato di portarla all'aeroporto perché ho detto, prima cosa era molto lontano, poi se io arrivavo all'aeroporto, diciamo centrale, con tutti gli americani che erano lì, già c'era già dei problemi. Mi vedono arrivare all'aeroporto con la macchina di corsa, con una scorta, con la mia scorta, cosa l'altra, a 800 metri mi cominciavano a sparare. E poi andare all'aeroporto era attraversare di nuovo la città. Così io ci ho detto, guarda, io li carico e li porto al porto vecchio, che era neanche 800 metri da dove è successo il fatto. E voi mandatemi in elicottero. Dopo pochi minuti è arrivato questo elicottero che si era alzato dalla Garibaldi, credo, la nave Garibaldi, e ha atterrato proprio vicino alla macchina, è sceso un dottore militare, e io ho detto, guardi che mi sembra che è ancora in vita. Quando ci ha messo la maschera, dopo un po' di fatti, questa maschera ha fatto 2 o 3 volte, che poi dopo... Le salme vengono portate sulla nave Garibaldi e ricomposte. In serata vengono riportate all'aeroporto di Mogadiscio. Giovanni Porzio di Panorama e Gabriella Simoni di Studio Aperto hanno portato sulla Garibaldi anche gli effetti personali di Ilaria e Miran, raccolti all'hotel Saafi. L'elenco comprende anche il cavalletto della telecamera, 2 borse con gli effetti personali e 2 buste contenenti valori e documenti. Nel bagaglio ci sono anche 5 block notes e il taccuino degli appunti di Ilaria. Il materiale filmato da Miran viene visionato immediatamente. I block notes sono esaminati alla ricerca di qualche indizio, ma ai genitori di Ilaria sono arrivati solo 2 block notes in un bagaglio senza traccia di sigillo. Ma chi ha manomesso i sigilli degli effetti personali di Ilaria e che cosa contenevano i taccuini mancanti? Perché non furono svolte adeguate indagini da parte della polizia somala? Ce ne parlano Remigio Benni, corrispondente dell'ANSA, e Ali Mahdi, presidente ad interim della Somalia dal 1993 al 2000. La polizia somala ha una tradizione di capacità professionale che nessuno smentisce. E tutti sono concordi nel ritenere che se avesse fatto delle indagini serie sarebbe arrivata alla conoscenza del fatto. Ci siamo addolorati veramente quando abbiamo sentito la sua morte. Non abbiamo saputo niente fino ad ora perché io non lo vedo e non possiamo neanche immaginare perché non era nella politica o non lo sappiamo veramente, sappiamo soltanto che è stata seguita da 4 chilometri, è stato qui all'hotel Aman, questo è quello che sappiamo. Noi non abbiamo avuto la possibilità di indagare perché il corpo hanno preso via. Noi non possiamo passare al di là della Green Line, non possiamo passare, perché questa indagine si deve cominciare dall'albergo dove si deve cominciare. Se qualcuno è seguito, per esempio, dall'albergo. Avete sentito Ahmed Girao, capo dei servizi di sicurezza della Somalia. Di questo duplice omicidio si occuperà non solo la polizia somala, ma anche moltissime procure italiane. Da Roma a Latina, da Torre Annunziata a Asti e poi ancora quella di Brescia, Udine e La Spezia. In questa inchiesta si parla di traffico di armi e di rifiuti tossici. La morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin è molto più complessa di un omicidio casuale in una zona di guerra. E infatti di questo delitto si occupa alla fine degli anni 90 anche la commissione d'inchiesta sulla cooperazione per lo sviluppo. Io sono stato nello Yemen, ho compiuto degli atti di indagine lì e dopo questi atti di indagine io non posso escludere l'ipotesi che i 2 giornalisti siano stati uccisi perché erano venuti a conoscenza di qualcosa, traffico d'armi, di cui non dovevano venire a conoscenza e che non dovevano portare a conoscenza di altri. Credo che ci siano dei soggetti che hanno interesse a depistare e affermo questo anche sulla base delle dichiarazioni che mi sono state rese da 2 cittadini somali, i quali mi hanno chiesto di poter venire in Italia dal Kenya dove si trovavano, dicendo che avevano delle dichiarazioni estremamente importanti da fare con riferimento all'omicidio dei due giornalisti. Era una coppia di coniugi, due cittadini somali, i quali chiaramente riferivano circostanze e fatti non veri. E soprattutto l'uomo, lui ha reso delle dichiarazioni in contrasto con quanto risultava dalle registrazioni audiovisive che sono state effettuate nella immediatezza dell'omicidio. Avete sentito il sostituto procuratore Giuseppe Pittito. Qual era il vero scopo di quella coppia che il magistrato ha subito rimandato in Somalia? Ali Mohamed Adi, che afferma di essere l'autista al momento dell'agguato, parla così dopo la morte della giornalista Ilaria Alpi. Io credevo che anche Ilaria è viva, che io solo ho avuto questi incidenti, perché era fronte, ho avuto questi incidenti. Invece lei è stata colpita da pallottola. E mi ricordo le sue parole ultime, mi ricordo solo, Billy, aiutami, Ali, diceva. E Miran? Chi? Miran era il cameraman. Ah, sì, il cameraman, tu stai parlando. Miran Croati. Sì, lui non è successo niente, come credo, perché io sentivo soltanto l'aria, perché era la mia destra. E tu pensavi che a lui non era successo niente? Io pensavo, sì, così, perché non sentivo dalle sue parole, non sentivo niente, perché qui c'era tutto sconvolto, tutti terrorizzati. Sentivo solo, perché era vicino a me l'aria, mi diceva aiutami. E dopo io mi sono svanuta. Ma il suo racconto è farcito di clamorosi errori. Sbaglia la posizione dei passeggeri. Ignora chi sia Miran Rovatin. Chi è quest'uomo? Quale verità vuole tenere nascosta? Quale verità vuole accreditare? Ce ne parla Mariangela Gritta Greiner della Commissione d'inchiesta sulla cooperazione per lo sviluppo. Tutte le persone e tutte le organizzazioni che hanno interesse che non si scopra la verità su questo duplice delitto, che probabilmente sono parecchie e sono persone potenti dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, non lo so, ma certamente tutti quelli che non vogliono che si arrivi alla verità. Il 9 aprile 1995 il sultano di Bosaso, Abdullahi Musa Bogar, risulta tra gli indagati, ma la sua posizione sarà archiviata. 15 luglio 1997 il procuratore capo dottor Salvatore Vecchione avoca a sé l'inchiesta affiancato dal dottor Franco Ionta. Il 12 gennaio 98 Ashi Omar Hassan è a Roma per testimoniare alla commissione Gallo sulle presunte violenze dei soldati italiani in Somalia. Ashi Omar Hassan è identificato dall'autista della Alpi e da un ex guerrigliero detto Gelle. Hassan verrà arrestato per concorso in duplice omicidio e il 18 gennaio del 1999 inizia il processo contro di lui. Il 9 luglio del 99 Hassan è assolto. Questa la lettura della sentenza. Mix 24, la storia. Chiediamo aiuto all'opinione pubblica, l'opinione pubblica la siamo sempre avuta, solo che adesso ne abbiamo ancora più bisogno, perché a distanza di 6 anni non si è raggiunta nessuna verità. Bentornati a Mix24, avete sentito Giorgio, il padre di Ilaria Alpi. Il 24 novembre del 2000 la Corte d'Assise d'Appello di Roma rovescia il processo di primo grado e condanna Hosni Omar Hassan all'ergastolo per l'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Rovatin. Il 10 ottobre del 2001 la Corte Suprema di Cassazione conferma l'ergastolo. Ma nel gennaio del 2004 si insedia la commissione d'inchiesta Ilaria Alpi istituita con deliberazione della Camera dei Deputati presieduta dall'onorevole Carlo Taormina. Se la polizia somala non è riuscita a fare nessun passo avanti nelle indagini, in Italia la giustizia condanna all'ergastolo almeno uno degli autori dell'omicidio di Ilaria e Miran. Eppure la verità è ancora molto lontana. Infatti la commissione d'inchiesta, presieduta da Taormina, arriva a conclusioni completamente diverse da quelle finora raggiunte dalla magistratura, come conferma in questa intervista. Dal punto di vista dell'esecuzione materiale del duplice omicidio, Noi lo abbiamo potuto accertare soltanto parzialmente, anche se con rilevazioni piuttosto interessanti, perché abbiamo a disposizione, lo abbiamo messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, un testimone sottoposto al programma di protezione, il quale ci ha dato la indicazione di coloro che appartenevano al comando. Non si trattò di una esecuzione, si trattò di un agguato diretto a sequestrare i due giornalisti. Un agguato conclusosi malamente perché un uomo della scorta di Ilaria sparò per primo e i banditi risposero al fuoco. Certo, è abbastanza chiaro che Hashi Omar Hassan, il ragazzo che oggi è in carcere in esecuzione di una sentenza di condanna definitiva come uccisore di Ilaria Alpi, è molto probabile che sia innocente. La vittima sacrificale iniziale è stato proprio Miran Hrovatin. Fu lui che, abbassandosi verso il parabrezza per essere stato colpito a morte immediatamente, fulminato, rese libero la zona dell'auto verso il suo sedile. Ilaria Alpi era accovacciata sotto il sedile e fu la casualità drammatica che portò un proiettile attraversare lo schienale e a raggiungere la testa di Ilaria Alpi. Tutti sanno che abbiamo cercato e non abbiamo trovato nulla che possa far pensare a consapevolezze maturate in quei giorni da Ilaria Alpi e Miran Hrovatin in Somalia. Mancando una causale, ovviamente è inutile discutere di mandanti. Taormina ha risolto tutti i problemi che in questi sono stati affrontati, e sostenere che non ci fosse una volontà omicidiaria è veramente paradossale. Prima di tutto, per quale ragione? Gli unici due uccisi sono i due italiani, i giornalisti. I due che rimangono in vita sono i due somali, ma tutti possono capire che se si voleva fare un rapimento, le prime cose da fare era neutralizzare i due che avevano le armi. E poi la conclusione di un omicidio quando si vuole rapire è in sé contraddittorio, ovviamente, perché siccome si vogliono ricavare dei denari dal rapimento, uccidendolo non si ricava un bel nulla. Quindi ci sono molte cose che non quadrano nel ragionamento di Taormina, e ci sono anche molti suoi comportamenti, a mio parere, piuttosto sospetti, tesi a selezionare le informazioni, selezionare i dati in nostro possesso per in un qualche modo sostenere questa tesi preordinata. Avete sentito Raffaello De Brasi, vicepresidente della commissione d'inchiesta di Ilaria Alpi. Dunque, anche dentro la commissione parlamentare si sono verificate polemiche e spaccature. Da una parte la relazione di maggioranza, che sostiene che Ilaria Alpi sia stata uccisa per errore durante un tentativo di rapimento, dall'altra la relazione di minoranza, che rifiuta questa tesi e contesta le conclusioni di Taormina. Ma torniamo a Mogadiscio, quel giorno. Torniamo ai misteri che circondano questo duplice omicidio. E in particolare ce n'è uno che riguarda i nostri soccorsi. È il nostro contingente militare in Somalia. Perché i nostri soldati non accorsero subito sul luogo della tragedia? Ce ne parlano Mariangela Gritta Greiner, Giancarlo Marocchini. Nessun italiano, diplomatico, militare o esponente del governo italiano fu presente, andò sul luogo dell'assassinio. L'unico italiano presente fu Marocchino e i due giornalisti, Simoni e Porzi. Qui di polizia di fianco a me è arrivato solo uno che passava per caso. Tra l'altro abbiamo sentito anche il colonnello Vezzalini, che era il colonnello di UNOSOM, che era lì a 150 metri dal luogo dell'agguato, il quale ci disse che mandare fuori una pattuglia voleva dire mettere a rischio le persone. Questo ci ha detto. È vero che alcuni militari italiani che erano inseriti in UNOSOM effettivamente non svolsero un ruolo attivo, o meglio lo fecero svolgere ad altri invece di svolgerlo loro personalmente. Ma è vero invece che l'indagine è stata effettuata da UNOSOM in altre sue articolazioni. Avete sentito Carlo Taormina. L'intervento del contingente italiano sul luogo dell'agguato è tardivo e inefficace. e la ricostruzione dei fatti dà adito a polemiche, come dimostrano le richieste dell'avvocato della famiglia Alpi, Guido Calvi, e le risposte dell'allora comandante del contingente italiano, Carmine Fiore. Perché lei sostiene che i carabinieri hanno recuperato i corpi ben sapendo che ciò non è la verità? I carabinieri sono andati a recuperare i corpi, se no non si capisce che cosa sarebbero andati a fare. Una volta arrivati, hanno trovato il marocchino che un minuto prima si era mosso per portare i corpi al Porto Vecchio, si sono diretti dietro la macchina del marocchino, ne hanno facilitato l'ingresso al Porto Vecchio e, insieme ai due giornalisti, hanno provveduto a caricare i corpi sull'elicottero. Proprio in quei giorni, che erano giorni difficili perché erano quelli del rientro del nostro contingente dalla Somalia, c'era un movimento molto strano, in particolare su due navi, la nave San Giorgio e la nave Garibaldi, per presunte, io le chiamo così, gare di pesca. Trovo poco credibile che il giorno in cui il nostro contingente deve partire dalla Somalia si organizzino delle gare di pesca. Uno. Trovo peraltro strano che per organizzare queste gare di pesca arrivano su nave militare delle persone, c'è uno spostamento, diciamo, arrivano elicotteri, partono, quando, tra l'altro, queste gare di pesca avvengono in un orario contiguo all'assassinio di Ilaria e di Miran. E praticamente il generale Fiore sostenne che non era stato possibile mandare nessuno a soccorrere, andare a vedere che cosa era accaduto. Quindi è abbastanza strano che nelle stesse ore ci siano invece movimenti per organizzare la gara di pesca. Avete sentito Mariangela Gritta Greiner? Se quello di Ilaria Alpi è un vero e proprio omicidio mirato, una vera esecuzione, allora vuol dire che c'è un movente che può essere nelle inchieste che Ilaria Alpi stava conducendo in Somalia. Ilaria e Miran, arrivati a Mogadiscio il 12 marzo, ripartono 4 giorni dopo per Bosaso, 1200 chilometri a nord del paese. A Bosaso, Ilaria intervista Abdullah Bogar, ex magistrato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi, poi prosciolto da ogni accusa. Con il sultano, Ilaria parla soprattutto di una società proprietaria di una flotta di pescherecci donata dalla cooperazione italiana. La società è accusata di essere coinvolta nel commercio internazionale di armi. Questa l'intervista di Ilaria Alpi ad Abdullah Bogar. Il porto di Bosaso è il centro più importante delle regioni nord-orientali della Somalia. Qui approdano le navi in arrivo dalla penisola arabica. Parlano di questo scandalo, di questo proprietario somalo con passaporto italiano, si chiama Mugne, che avrebbe preso queste navi che erano di proprietà dello Stato e le avrebbe usate a suo uso privato. Lui? Lui solo. Lui con altre persone. Io le chiedo di spiegarmi che cosa è successo. Beh, durante il collasso lui era a capo di questa flotta, una internazionale che si chiama Shifco. Ed era una proprietà praticamente del Siadbor. E lui li faceva l'amministratore. E quando è venuto il collasso si è preso le navi, ha fatto scendere tutti gli equipaggi somali in Tanzania, Dar es Salaam, e se l'è squagliato con le navi in Italia. Parte di questa proprietà apparteneva ad una società italiana. E la società in collisione con Muia, perché Muia non era niente e non è niente tuttora. È la società che manovra. Sai il nome della società? No. Il nome? E la conosce? Io no. Comunque la trovi. Deve guadagnartela il pane lei. Non posso. E sai, queste società hanno dovunque hanno dei lacchè. E dov'è la nave? Non la possiamo vedere? Come potete vedere? Perché lei viene dal sismo, perché deve vedere? Prendi informazione, basta. Venivano da Roma, dalla Brescia, da Torino e tutto, dal Regno Sabaudo a maggioranza. Secondo lei come mai l'attenzione internazionale si è concentrata su Mogadiscio e ha un po' dimenticato il resto della Somalia, soprattutto queste regioni? Perché la mass media mondiale ha bisogno della, delle cose brutali. E a Mogadiscio succedono le cose brutali. Mix 24, la storia. Qual è il suo giudizio complessivo sulla mala cooperazione in Africa? E se le risulta che ci fosse in Somalia anche un traffico di armi? Sul traffico di armi non c'era niente da scoprire, perché lo facevano tutti il traffico di armi, in maniera assolutamente libera, sia per armi che provenivano dall'estero, sia per armi che Siad Barre aveva in grandissima quantità, perché date anche dallo Stato italiano in perfetta legalità, e che costituivano il bottino sistematico dei signori della guerra che si contrastavano gli uni con gli altri. La mala cooperazione c'è sicuramente stata, fino a quando c'è stato Siad Barre, perché poi dopo non c'è stato più niente praticamente. Bentornati a Mix24, avete sentito Carlo Taormina, presidente della commissione d'inchiesta parlamentare che nel 2004 viene incaricato di indagare sul duplice omicidio di Larry Alpi e Mirn Rovatin a Mogadiscio nel 1994. Non è del suo stesso parere il giornalista Luciano Scalettari. Susanna Imbosaso è l'ultima persona intervistata, non ultima in senso cronologico, ma sicuramente l'intervista più importante dell'ultimo viaggio di Larry Alpi. E apprendiamo cose che sono rivoluzionarie riguardo a questo caso, che non avevamo mai saputo prima. Veniamo a sapere che l'intervista è durata 3 ore, 2 ore e mezzo, 3. E quindi, se è vero, ma pare che sia vero, perlomeno il Bogor questo ricorda, vuol dire che delle cassette sono state sottratte. Veniamo a sapere che Larry Alpi gli ha chiesto insistentemente di traffico d'armi e di traffico di rifiuti, essendo a conoscenza di molti elementi. Veniamo a sapere che ha chiesto di salire sulla nave e ha insistito su quale fosse veramente il carico della nave. Queste sono 3 cose che addirittura in una certa fase storica di questi 12 anni il sultano di Bosaso aveva anche negato. E proprio il sultano verrà intervistato nel settembre 1994 su Ilaria Alpi dal giornalista Maurizio Torrealta. Lei aveva timore a rispondere a delle domande sulla proprietà di queste navi. Perché aveva timore? Perché so che queste società, che in genere operano sui traffici, cioè sulla pesca, in genere non svolgono solo l'attività di pesca, ma svolgono anche altre attività collaterali. Mezze verità, mezze confessioni, testimonianze molteplici che si contraddicono l'un l'altra. Ma qual è la verità del sultano di Bosaso? Perché Ilaria non voleva tornare a casa dopo il ritiro dei nostri soldati? Che cosa aveva scoperto sul traffico di armi e di scorie tossiche? Ce ne parla la giornalista Barbara Carazzolo, consulente della commissione d'inchiesta. Taormina, l'unico che finora è stato trovato, di cui si è abbondantemente parlato, perché è stato trovato perché era nel suo cassetto della sua scrivania a Saxarubra, ci sono delle indicazioni su Mugne, sulla Scifco, sui soldi della cooperazione, e c'è un accenno alla strada Garoe-Bosaso. Ora, su questa strada Garoe-Bosaso, di questa strada si è spesso sospettato, sia per i miliardi che è costata la cooperazione italiana, sia perché è sospettata di essere servita anche per sotterrare rifiuti tossici, tossiconocivi, addirittura qualcuno ha parlato anche di nucleare, nei cantieri aperti per costruirla, nei pozzi aperti per costruirla. Gli organismi internazionali ONU e UNEP, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, hanno ricevuto denunce su come il Corno d'Africa, Etiopia, Eritrea e soprattutto la Somalia sia stato trasformato in un grande immondezzaio dai paesi di area OCSE. Nel 1998 in Somalia i medici cominciano a registrare patologie incompatibili con l'Africa. Cancri, malformazioni compatibili con l'inquinamento da sostanze chimiche e nucleari. Così risponde Taormina, intervistato sui rifiuti tossici. Nei rapporti UNEP, Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa delle questioni ambientali, del 98 e del 99, si parla di malattie in Somalia legate a sostanze tossiche. Le risulta? A noi non risulta. Carlo Taormina sostiene che la regione è priva di rifiuti tossici, secondo accertamenti fatti anche da organizzazioni internazionali. Non è dello stesso parere il giornalista Luciano Scalettari. Abbiamo trovato delle testimonianze di due autisti che indicano di aver portato materiale tossico nocivo vicino alla strada Groebo-Sasso. E il sito, uno dei due siti da loro indicati, ha avuto un riscontro, diciamo, effettuato con questo strumento che si chiama magnetometro, che misura l'alterazione magnetica dovuta a metallo presente. E loro hanno descritto questo materiale come latte di metallo contenenti vernici scadute, quindi tossico-nocive, e in quel punto lo strumento ha dato riscontro che effettivamente c'è del metallo. E il punto indicato da loro effettivamente ha dato questo riscontro, allora si deve aprire un capitolo, perché gli autisti erano dipendenti di un consorzio che stava costruendo la strada e hanno preso queste latte dal molo dove prendevano il materiale di costruzione della strada, giunto insieme al materiale di costruzione della strada. Quindi francamente su che cosa, a che cosa si riferisca il presidente Taormina, non riesco nemmeno a immaginarlo. Se c'era un collegamento diretto, causale, nesso causale, causa-effetto, che noi, di cui noi fossimo a conoscenza, fra questo episodio dei due autisti e l'omicidio Alpi Rovatin, certo che no. Questa era una commissione che aveva lo scopo di mettere il timbro su 12 anni di giornalismo d'inchiesta non meritevole di questa qualificazione. Noi abbiamo dovuto sventare parecchi tentativi di depistaggio, da cui la commissione è stata fatta segno, e per quanto riguarda questi due giornalisti, ma non soltanto questi due giornalisti, è stato necessario proporre loro le dimissioni perché potesse non crearsi un'ulteriore situazione un pochino più difficile nei loro confronti. Oltre a Barbara Carazzolo e Luciano Scalettari, si è dimesso anche l'onorevole Mauro Bulgarelli. Sì, questa è una versione giornalistica che Mauro Bulgarelli ha fatto conoscere in continuazione di essersi autosospeso dalla commissione. A noi non risulta assolutamente essersi autosospeso, e anzi le posso dire che ha presentato una relazione di minoranza nell'ambito della minoranza, con cui ha dato un ulteriore contributo ai nostri lavori. Il sultano di Bosaso, sentito da noi, ci ha detto che Maurizio Torrealte, giornalista del TG3, che è stato magna pars in questa inchiesta, di aver ricevuto da Maurizio Torrealta la proposta di una ricompensa fantastica laddove avesse avuto l'ardire di accusare Omar Mugne, il proprietario delle navi Scifco, di essere il mandante dell'omicidio. Il sultano di Bosaso, anche qui in commissione, ha detto: ho rifiutato sdegnato, perché io sono un magistrato e quindi come tale non avrei mai fatto una nefandezza di questo genere. Dunque, come dice Taormina, il sultano di Bosaso avrebbe dichiarato che il giornalista della RAI, Maurizio Torrealta, gli avrebbe offerto una somma di soldi per accusare il proprietario dello Scifco di essere il mandante dell'omicidio. Noi abbiamo sentito Torrealta, che ha detto di non aver preso visione del verbale dell'audizione del sultano di Bosaso. Torrealta dice che la stessa accusa gli è stata rivolta da un marinaio da lui intervistato nel 1994 nel corso dell'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi. Sentiamolo. E questa persona, di fronte al magistrato, ha detto: no, in effetti avevo visto congiungere l'indice e il pollice del giornalista Torrealta, e questo segno mi aveva fatto pensare che forse avrei potuto avere dei soldi. Io ho quantificato questa cifra in 30 milioni e è stato condannato per diffamazione. E così chiunque dirà frasi di questo genere o farà insinuazioni di questo genere dovrà affrontare un processo, perché io non ho preso per il mio lavoro, non ho offerto, tantomeno ho preso dei soldi, ma tantomeno ho offerto, perché la RAI, io sono un giornalista della RAI, non offre mai soldi per le interviste che fa, né le ho mai offerte io, e se c'è qualcuno che cerca di delegittimare il mio lavoro facendo affermazioni di questo genere dovrà poi rispondere in tribunale, come ha risposto questo marinaio che è stato condannato per diffamazione. Molte volte ci è stato chiesto che speranze avete. È una domanda che noi ci poniamo. Noi dobbiamo continuare a lottare, perché lo dobbiamo a nostra figlia, lo dobbiamo a Miran Rovatin. È un dovere, secondo noi è un dovere.